Agli autonomi di ieri, oggi, domani. Storie dimenticate. Delle piazze degli autonomi degli anni 90. Storie di botte e paure. Di rabbia e di sogni mai realizzati. Storie scomode. Storie che ho deciso di raccontare dal punto di vista degli arrabbiati. Dal punto di vista degli autonomi. A cui mi sento ancora di appartenere, senza rinnegare nulla, senza pentirmi di nulla. Storie di sconfitti. Oggi siamo a Ostia. 12 gennaio 1991. Ma quale pace? Nel pomeriggio si terrà il secondo corteo territoriale anti-imperialista contro la guerra. La strategia decisa dal comitato politico dei comitati autonomi operai di Roma è chiara. Manifestare in ogni quartiere o posto di lavoro della città, dove sia ancora presente, una realtà dell'autonomia. Quindi scenderemo in piazza a Primavalle, Valmelaina, Tufello, Ostia, Magliana, Trullo, San Lorenzo, San Basilio, Policlinico, Università. Una volta, in quasi ogni quartiere della città, c'era un collettivo o un comitato autonomo. Oggi non è più così. All'alba degli anni 90 stiamo morendo. La Pantera ha sbaragliato le carte. Da un lato ha dato linfa vitale a noi compagni presenti nei quartieri e nelle scuole di periferia con nuovi militanti e nuovi frequentatori. Dall'altro sta facendo carne da macello dei comitati autonomi universitari e di altre realtà autonome. La scelta del Lido di Roma, come si usava a dire ai tempi di quando se stava peggio, è fra le prime tappe della strategia decisa dal comitato politico di fare cortei contro la guerra in ogni quartiere. La prossima settimana faremo cortei anche al Trullo, a Magliana e a San Lorenzo. La resistenza alla guerra passa per i territori, lo diciamo con forza. Guerra alla guerra! Guerriglia, sì! Guerra, no! Ovunque porteremo le nostre parole d'ordine. Ma domani finalmente saremo tanti e uniti nella grande manifestazione nazionale contro la guerra. Sfileremo da Piazza della Repubblica a San Giovanni, un classico dei nostri giorni, altro che Giro d'Italia. Almeno così si dice in tutte le assemblee di gestione dei centri sociali dell'autonomia romana e nelle sedi di collettivi e comitati pari e nel grande bacino proletario che è il coordinamento di lotta per la casa. Scatenare la guerriglia sociale contro la guerra imperialista. Così scriviamo su manifesti e volantini. In realtà oggi di guerriglia neanche a parlarne. I nostri vecchi non vogliono e noi giovani mordiamo il freno. Nonostante questo corteo sia potenzialmente adatto a farne un po' di guerriglia, siamo in molti con i caschi, i bastoni, alcuni ben visibili, altri nascosti in grandi ma evidentissime sacche giganti. Alle 17 siamo già protetti dal buio e lo slogan "Si spengono le luci", si alza spesso e a ripetizione. Io lo urlo con gioia infantile e tanta rabbia. I vecchi con un po' di nostalgia. Questo corteo unisce la rabbia contro la guerra ormai alle porte a quella contro i servi fascisti che hanno aggredito per l'ennesima volta un gruppo di studenti medi di Ostia. A Ostia la situazione è davvero seria, altro che Magliana e Trullo, i quartieri dove vivo e faccio politica e dove fascistelli di stadio e di strada stanno rialzando pericolosamente la testa. Qui i fascisti sono tanti, soprattutto i coatti malavitosi legati a vecchi camerati di terza posizione e quelli nuovi di Meridiano Zero e Movimento Politico. E così dopo Boccea e Montesacro e San Basilio, adesso Ostia. Io, Antonello, Dario e Matteo siamo venuti con la metro, partendo dalla fermata di Magliana, che in realtà si trova all'Eur, fino a Ostia Lido. Un percorso a me stranoto per motivi familiari, ma strano percorrerlo con questi loschi figuri, gli ultimi autonomi della città. Sul sul trenino incontriamo un compagno della radio, proprio quello di cui più e più volte i compagni mi hanno parlato con astio per via di un sacco di scazzi. E soprattutto in questi ultimi mesi ci sono stati sti scazzi tra noi e lui. Ma io in realtà neanche lo conosco. Figuriamoci se posso averci litigato. Ma da fedele alla tribù qual sono, mi sono già identificato con la struttura a cui appartengo da poco più di un mese e quindi mi sono accollato con piacere anche gli scazzi che la mia struttura porta avanti da mesi, anni in città. Che modo tribale di ragionare che c'ho, lo so. Lui mi sembra un tipo simpatico, affabile. E dai, ma perché anche fra noi ci devono essere gli stessi problemi da cui sto fuggendo dal comando ultra e dalla curva sud? In fondo siamo tutti autonomi, dai. Eccoci a Ostia. Il corteo parte con un'ora di ritardo, ovviamente, come nella migliore tradizione romana e compagnesca. Dei fascisti qui neanche l'ombra. Se ne vede un piccolo gruppo di fronte a un baretto su via delle Baleniere. Non faccio in tempo a infilarmi il casco e fomentare i miei compagni che gli ostiensi hanno già messo in fuga i camerati, riuscendo a mollargli qualche schiaffone e un paio di cascate ben messe. Non gli hanno fatto male, però li hanno fatti scappare e gli hanno dato un segnale. Con gli autonomi non si scherza. Piantatela di rompere i coglioni davanti alle scuole e di fare scritte in giro, che altrimenti finite male. Almeno io interpreto così la cosa. Ma temo che queste nuove merde di movimento politico e Meridiano Zero, verso cui scodinzolano dietro quei vigliacchetti del fronte della gioventù, non si fermeranno per questo segnale. E se non saremo presto capaci di unirci e difenderci seriamente, ce li ritroveremo in tutti i quartieri di Roma nei prossimi anni, anche da quelli dove furono cacciati 20 anni fa. Dopo 3 ore di corteo al freddo e al buio, arriviamo finalmente a Spazio Camino. Qui si svolge una riunione nel giardino, invece che all'interno delle accoglienti mura del centro sociale. Fan freddo boia. Ci troviamo nei giardini alle spalle del posto. Non entriamo per timore di microspie e telecamere. Proprio la scorsa settimana ne hanno trovata una presso il centro di documentazione anarchica di Torino. Qualcuno l'aveva piazzata dentro i tubi del cesso. Antonello mi ha detto di aspettare lontano. È una riunione per pochi. Anche se a occhi e croce conto almeno 50 compagni. Io sono tra i più giovani. Neanche 18 anni ho compiuto. Ma sono un militante con qualche anno di scontri alle spalle, allo stadio, per le strade. Col cazzo che me ne resto ai margini della riunione. Mi avvicino e un paio di compagni si fanno cenno fra di loro. Si avvicinano a me con un fare guardingo, sospettoso e pronti ad allontanarmi. Antonello, per mia fortuna, li blocca al volo. Gli dice che sono anch'io un compagno del centro sociale Antico Molo. Mi dà una mezza sgridata per non aver seguito l'ordine, ma mi lascia avvicinare alla riunione quel tanto che basta per guardare e ascoltare. Il comandante con un bastoncino disegna fra la terra e il brecciolino il percorso che faremo, l'incrocio fra via Cavour e via dei Fori Imperiali. Il corteo girerà a sinistra verso il Colosseo, a destra ci sarà schierata la celere coi blindati a protezione di Piazza Venezia e delle sedi governative e istituzionali che da essa si possono raggiungere. Non bisogna tentare un vero e proprio assalto. È impossibile sbaragliare le guardie in una strada tanto larga e anche se per un istante ci riuscissimo saremmo in pochi per tentare un assalto a non si sa bene cosa, il Campidoglio, Montecitorio, Palazzo Chigi. Ma non scherziamo, dai. Abbiamo le idee confuse, o meglio ce le hanno loro. Io ce le ho chiarissime. Attacchiamo e basta. Tentiamo di assaltare comunque Palazzo Chigi, sede di un governo guerrafondaio imperialista. Che ci importa a noi dei tatticismi della politica e di quel che dice il resto del movimento? Vaneggio. Forse. Il comandante è sicuro che nessuno ci seguirà. Forse un po' di studenti, qualche altro collettivo. Ma da quello che ho capito, solo noi autonomi abbiamo deciso di dare un segnale, fare un casino, scatenare la guerriglia contro la imminente guerra. Le altre realtà politiche del movimento non fanno nulla e temo siano anche critiche con noi, come al solito. Quindi bisogna fare una finta, cioè fingere di voler assaltare il Parlamento e il governo, avanzando con una leggera carica verso i blindati che si posizionano sempre su via dei Fori Imperiali in prossimità di Largo Corrado Ricci, dando le spalle a Piazza Venezia. Niente di più. Solo una finta. cioè limitarsi al lancio di sassi e di bottiglie contro le guardie, che saranno lì schierate in bella mostra, in tenuta pesantemente antisommossa. Evitare il corpo a corpo, anzi, alzare una bella barricata con macchine e quant'altro per evitare appunto che la polizia carichi il corteo o che gruppi di compagni troppo esaltati provino a sfondare il cordone delle guardie. Allora, noi della zona ovest faremo il cordone di chiusura del blocco che si scontrerà. Cioè, ancora una volta, come lo scorso 12 dicembre, noi staremo dietro. E che palle! Ah, anche se quella volta avemmo l'onore di alzare i cartelli di legno con le stecche con su scritto enorme "Così che boia". Che palle. Quindi non attaccheremo direttamente le guardie. Cioè dovremo limitarci a difendere il nostro spezzone da eventuali gruppi di movimento o del PC o dei pacifisti che proveranno a venirci a rompere i coglioni quando inizierà l'azione. E dovremo forzare il rientro nel corteo se le guardie caricassero a fondo dai fori in direzione Colosseo e i compagni delle prime file non riuscissero a reggere la carica. Che bel compito de merda che ci aspetta. Niente divertimento e solo eventuali botte da prendere. Così è deciso alla riunione. Ma dico, perché per esempio alcuni compagni di zona non resteranno dietro con noi e andranno avanti? Ma non fanno anche loro parte del coordinamento della zona ovest? O no? Dico, mica si può stare insieme nel coordinamento solo per le rotture de palle. Si sta insieme sempre, altrimenti veniamo avanti pure noi. Vabbè, io in questa storia dei coordinamenti non ci ho ancora capito nulla. Noi siamo il coordinamento della zona ovest, ma in realtà copriamo la zona sud-ovest della città. In teoria il coordinamento della zona ovest infatti comprende Trullo, Magliana, Monteverde, Bravetta, Spinaceto e Laurentino. Pensa un po', i compagni della zona est in realtà coprono il nord della città, i compagni della zona nord in realtà coprono il nord-ovest, invece quelli della zona sud coprono un pezzo di sud-est e gli manca un intero pezzo della vera zona sud. Poi i compagni della vera zona est non hanno praticamente nome. Cioè, se capisce in cazzo. Alla fine, l'unica lezione che ho imparato da questa storia è che i compagni sono incompatibili non solo col capitalismo e le sue istituzioni, ma perfino coi punti cardinali. Infatti, i vari coordinamenti di zona esistenti non c'entrano nulla con la geografia della città. Finalmente è arrivato il gran giorno. Sabato si esce prima da scuola. Pochi minuti a piedi e torno a casa. Pranzo al volo e poi di corsa all'antico molo con il mio motorino. Un sietto rubato di notte in quel di Monteverde, quartiere ricco della nostra città. E non c'ho più Renatino, il mio primo sì. Adesso c'ho un nuovo sietto blu, fresco fresco di furto, rubato a Monteverde vecchio, a qualche pariolino fascistello. Presumo. O almeno così mi va di pensare. In questo sabato per nulla freddo di gennaio penso che finalmente la mia vita è bellissima. Vivo a Magliana, vado a scuola a Magliana, frequento un muretto dove c'è il mio gruppo di amici di scuola e del quartiere. Sono un militante autonomo di uno dei più autonomi e coatti centri sociali di Roma, l'antico molo. L'unica cosa un po' stonata l'ho aperto quando passo davanti alla serranda chiusa del centro sociale Magliana. Provo una gran tristezza nel vederla spesso quasi sempre chiusa. Mi piacerebbe essere militante del centro sociale Magliana, ma lì le cose vanno male da quando tutti gli autonomi storici si sono spostati a Laurentino e Spinaceto. Il centro è decaduto, spesso chiuso. I pochi compagni rimasti fanno poco e niente ed è frequentato pure da un sacco di tossici, piccoli spacciatori e vari piccoli malavitosi del quartiere. Ho provato a starci alcuni mesi, ma non ho retto. E poi quando ho conosciuto Matteo Antonello più di un mese fa, ho colto la palla al balzo, ho scelto di entrare all'antico molo. Adesso abbiamo deciso di fissare la riunione settimanale del coordinamento di zona contro la guerra proprio qui, a Magliana, per rivitalizzare lo spazio, per dare un supporto politico-morale ai compagni, per tenere la serranda alzata di uno spazio storico come questo, almeno una volta alla settimana. E non basta, lo so. Forse un giorno le cose cambieranno al centro sociale Magliana, boh, chissà. Partiamo dall'antico molo, tutti quei motorini, e poi li lasciamo alla fermata della metro Piramide. Da lì, pochi minuti, arriviamo alla stazione Termini, lato Piazza della Repubblica. Siamo in ritardo, come al solito. Noi romani. I milanesi ci rompono sempre insieme ai padovani per questo ritardo. Ci hanno ragione, però quanto rompono, sti nordisti. Il corteo è già partito con in testa i sindacati confederali, subito dietro le tante associazioni cattopacifiste. Con calma, difficoltà e forse pure pigrizia iniziamo ad avvinghiarci tanti e tanti cordoni. Mentre la gente normale ci sfila accanto, ci passa in mezzo senza rispettarci poi troppo. Siamo tanti? Boh. Visto che è lo spezzone nazionale dell'autonomia, mi aspettavo molto, ma molto di più. Iniziamo a sfilare da Piazza della Repubblica verso via Cavour, partendo con i nostri slogan forti e radicali, ben diversi da quelli di buona parte del corteo. All'altezza di Colle Oppio, Ettore De Ostia, bello come il sole, fa partire il coro Morte al fascio, che rimbomba fortissimo in tutto il nostro spezzone, adesso finalmente enorme. I fascisti ovviamente non si fanno vedere. L'MSI ha votato a favore dell'intervento, mentre quelli del Fronte della Gioventù fanno finta di essere contro la guerra. Movimento politico occidentale sostiene addirittura Saddam, sporcando i muri della città con scritte e manifesti farneticanti tipo Saddam, regalaci un altro Vietnam. Forse i fascisti ci sono anche oggi, infiltrati e ben nascosti dietro volantini inneggianti ai tecno-ribelli. Però non si fanno vedere apertamente, perché se li pizzichiamo so cazzi loro. Il corteo avanza lento e disordinato verso i fori imperiali. Noi serriamo sempre di più i cordoni, cerchiamo di far allontanare la gente dal nostro lungo e scomposto spezzone. Fuori, fuori dai cordoni! Lo gridiamo incessantemente. Avanziamo sempre di più, gli slogan rimbombano sempre più forti e rabbiosi. Il proletariato non ha nazione! Internazionalismo! Rivoluzione! Contro la guerra! Non basta la sfilata! Azione diretta, organizzata! E l'azione parte. Alla fine di via Cavour, invece di girare a sinistra verso il Colosseo, in massa di corsa iniziamo a correre, mantenendo i cordoni, caricando a freddo le guardie. Poche a dire la verità, soprattutto di Gossini e Specialotti, che si trovano fra noi e i fori imperiali. Le travolgiamo, le carichiamo, le facciamo correre, scappare, via, veloci, sempre più veloce, fino a farle riaggregare al massiccio spiegamento che si trova ai fori, di spalle a Piazza Venezia. Il contropotere nelle manifestazioni regge ancora. Niente guardie dentro il corteo, è la regola non scritta. Gli è permesso di stare solo davanti e dietro, non in mezzo. Ma temo che se non manteniamo un metodo e un comportamento di piazza rigido contro le guardie, presto ce li ritroveremo pure dentro le mutande, sti stronzi. Manco fossero preti. La nostra carica scatena l'inferno. Insomma, vabbè, per modo di dire, dai. La gente normale fugge, ma neanche troppo. Molti restano a guardare, altri solidarizzano con noi, altri ancora ci mandano a fanculo, ci danno dei fascisti addirittura. Ce lo urlano contro con più odio di quanto forse userebbero contro i fascisti veri. I nostri cordoni un po' si sfaldano, un po' reggono, vedo le barricate, il fuoco delle molotov e di qualche auto incendiata. Carichiamo, compagni, carichiamo! Perdo la testa. Forse perdo il controllo, forse inizio a gridare che dobbiamo andare avanti, provare a sfondare i cordoni della celere che sembrano cedere e indietreggiare. Boh! Parte lo schiaffone di Dario. Cazzo, dritto sulla testa, da? Mi grida che devo calmarmi e non fare il matto. Mica siamo allo stadio o per strada. Siamo un corteo, organizzati e disciplinati dobbiamo essere. Siamo comunisti, mica infantilisti. E in 5 secondi mi fa una bella predica leninista. Renato mi guarda fra il preoccupato e il divertito, dietro a quel suo sorriso cinico e tagliente. Poi mi abbraccia e quasi a consolarmi mi dice: dai, Marche, sta calmo e goditi lo spettacolo, indicandomi il fumo delle barricate che sale alto in cielo. Ma in tutto questo casino riusciamo a litigare pure fra di noi, non solo io e Dario, anche fra i compagni di Spinaceto e quelli del Leoncavallo, che forse adrenalinici e poco ligi agli ordini come il sottoscritto vogliono andare in prima fila anche loro, abbandonando i posti di copertura. Ne nasce pure una mezza rissa, cioè schiaffi fra compagni, fra noi autonomi. Non è possibile. Le guardie sono di fronte a noi, schierate, lanciano decine di lacrimogeni, ma la strada è larga, lo slargo è enorme, non ci sono palazzi alla nostra sinistra e dietro di noi solo tanti sassi e ruderi dei fori. Il fumo dei lacrimogeni quindi si disperde velocemente e la battaglia può continuare tranquilla. I lanci di sassi e bottiglie e bomboni sono fitti da parte nostra, ma la polizia e Caramba non caricano. Perché? Perché non caricano? Ah, forse perché preferiscono contenere, prendersi sassate e bottigliati piuttosto che scatenare l'inferno in questo enorme pezzo di centro storico cittadino. Forse perché dietro di noi ci sono ancora decine di migliaia di manifestanti di altri spezzoni del corteo. Molte sezioni del PC e dei sindacati provenienti da altre città sono alle nostre spalle e le guardie non possono spezzare il corteo e incaricare a fondo, capirai, rischiano di fare un macello generale. E noi su questo contavamo. È per questo che ci siamo messi in mezzo verso la coda del corteo, per non rimanere isolati ed essere facilmente schiacciati. Noi adesso siamo alle spalle del Colosseo, le guardie di fronte a noi, spalle a Piazza Venezia. Ci fronteggiamo, largo Corrado Ricci è il campo della battaglia. Un sacco di gente è ancora su via Cavour, ma non riesce a passare. In mezzo c'è la terra di nessuno, vuota di persone, ma piena di sassi, bottiglie, sanpietrini, auto ribaltate, incendiate. Molta gente torna indietro e prova a ricongiungersi al corteo passando per via del Colosseo, attraversando così il territorio ostile di Colle Oppio, dove c'è il rischio che gruppi di fascisti ben nascosti dal buio possano aggredire manifestanti isolati, così come è accaduto molte volte. Io non la farei quella strada se fossi loro. In molti ci sostengono alla fin fine, tantissimi studenti, sia universitari ma soprattutto medi, si buttano nella mischia lanciando anche loro oggetti contundenti contro le guardie. In prima fila sono quelli del nucleo rivoluzionario Virgilio, un sacco di studenti medi che lanciano sassi e bottiglie contro le guardie. Grandi! Provano a tenere le file del loro spezzone, fanno cordoni e non mollano. Siete dei grandi! Dietro di noi vedo un sacco di studenti medi pischellissimi che lottano e combattono. Devo contattarli, eh? Sì, devo farci qualche riunione insieme affinché si possano affrontare uniti e organizzati i prossimi mesi di resistenza alla guerra. Li ritroverò senz'altro nelle assemblee e nei cortei della prossima settimana e potremo costruire insieme un bel coordinamento di studenti medi autonomi della zona. Ci fronteggiamo con guardie e Caramba per un bel po'. Loro lanciano lacrimogeni e fanno finta di avanzare, fermandosi presto di fronte al nostro lancio di sassi e bottiglie e sanpietrini. La cosa dura fino a quando i lacrimogeni lanciati diventano tanti, troppi. E i compagni delle prime file dicono di avanzare verso il Colosseo, di rientrare nel corteo in direzione San Giovanni. Ci disperdiamo ormai. L'indicazione politica è chiara. Sparpagliarsi nel corteo, mimetizzarsi, cambiare giubbotti se possibile, evitare di farsi fotografare o peggio di farsi fermare da eventuali digostini che provano a infiltrarsi nel corteo ed evitare di rispondere alle provocazioni di questi stronzi di pacifisti e piccisti che vorrebbero tanto consegnarci alle guardie. Tacci vostra! Camminiamo in gruppetti di due, tre persone, guardandoci a vista. Superiamo agevolmente il Colosseo senza problemi e ci distendiamo su via Labicana. C'ho l'adrenalina a mille. Intravediamo un po' di fumo prima di entrare in piazza. Lacrimogeni? Fumogeni nostri? Che cazzo succede? La polizia inizia a caricare senza pietà, a spazzare, a fare male. Caricano per tutta la piazza. Ma perché? Perché siamo divisi e sfilacciati? Che fine hanno fatto i 300 che eravamo prima? Ma ora siamo in migliaia a resistere. L'intera piazza o quasi si difende dalle cariche, resiste, contrattacca finalmente. Scontri a San Giovanni, sotto la statua del santo che parlava con gli animali, dove adesso le guardie caricano come bestie assetate di vendetta. Ma stavolta gli dice male, eh? Un gruppo di compagni inizia a dare di matto, almeno secondo me. Si avvicinano al benzinaio che si trova sulla destra, via Emanuele Filiberto. Prendono la benzina, rovesciano una macchina. La incendiano e io inizio a gridare a Dario e gli altri che c'è il rischio che salti per aria al benzinaio, che rischiano di morire. Fermiamoli, avvisiamoli. Dario, Antonello. Dario mi riprende ancora una volta. Mi dice di stare calmo, che i compagni sanno quello che fanno. Dice che ho visto troppi film americani e che non scoppierà un bel niente. Dai, Marchè, stai tranquillo. Infatti non salta in aria nessun benzinaio e nessun compagno si fa male. Anzi, un drappello di Garamba è costretto alla fuga da un paio di molotov artigianali fresche fresche di pompa di benzina. Altro che scontri allo stadio, dove siamo pochi e disorganizzati, e dove se non alla prima, almeno alla seconda carica, ognuno scappa per sé e nessun Dio per tutti. Qui si sta uniti, si resiste ed eventualmente si arretra insieme. Almeno noi autonomi facciamo così. Arriva un camion dei pompieri per spegnere le macchine che vanno a fuoco vicino al benzinaio. Un po' di compagni gli si parano davanti. Dai, volete? Non è aria stasera, eh? I pompieri insistono, devono spegnere l'incendio perché sennò salta tutto per aria. Ma forse loro lo sanno che non salterà in aria un cavolo di niente. E se spengono le macchine i carabinieri ci saranno addosso. Allora non ci siamo capiti. Qualcuno inizia a prendere a calci il camion. L'atmosfera si riscalda ancora di più, se possibile. Un compagno storico di San Lorenzo sale sul camion con uno scatto felino e gli toglie le chiavi dal cruscotto. Problema risolto, ora fermatevi. Rivolto sia ai pompieri che ai compagni. Adesso però le cose si mettono male, o meglio iniziano a volgere verso la fine. I carabinieri e la celere vogliono riprendersi tutta la piazza, strade laterali comprese. Spalle alla basilica che sta lì mastodontica, quasi a proteggerli e dargli forza, iniziano a caricarci a fondo, a spazzare via, a farci male. Indietreggiamo con la cinta in mano, non abbiamo quasi più nulla per difenderci. Dopo un veloce, molto veloce corpo a corpo, i carabinieri iniziano a menare con il calcio del fucile. Stendono un paio di compagni, li aiutiamo a rialzarsi. Indietreggiano ancora un po', compatti, iniziando però a sfaldarci. Adesso basta, via, via! Ci stanno caricando a fondo, ancora con lacrimogeni e calci del fucile sulla testa e sulle braccia. Qualcuno più marziale prova pure a colpirci sulle ginocchia e sulle gambe per farci cadere e massacrarci a terra con calma, senza fretta. Massacrarci a terra con calma, senza fretta. Massacrarci a terra con calma, senza fretta. Basta, adesso gli voltiamo le spalle e iniziamo a fuggire. Ci sono dietro, non abbiamo nulla per difenderci, a parte la cinta e il casco che però teniamo in testa per ripararci. Sti stronzi s'accaniscono, ci corrono dietro, perfino nei vicoletti ormai. Io e Antonello ne abbiamo una alle spalle che prova a colpirci con il legno del fucile, mortacci sua! Acrobazia! Giriamo l'angolo al volo tenendoci a un palo della segnaletica stradale. Io faccio pure una mezza giravolta, tipo Gene Kelly, il grande irlandese di Cantando sotto la pioggia. Il carabiniere prova a tenere la velocità, ma con quegli scarponi è meno agili e infatti va lungo, dai, è strepitoso, grande. Però non abbiamo neanche il tempo di esultare. Continuano a correrci dietro senza sosta. Questi sono più freschi e soprattutto più incazzati di noi adesso per l'attacco a freddo che gli abbiamo sferrato ai fori. Ora che la vendetta che volevano attuare qui a Piazza San Giovanni gli si sta rivoltando contro. Adesso a noi autonomi si sono uniti centinaia e centinaia di manifestanti arrabbiati e per niente addomesticati dalle parole che escono dai megafoni del PC, della CGL, dell'associazionismo. Siamo in migliaia a scontrarci con le guardie adesso, in tutta la piazza e nelle strade che la circondano. Un po' scappiamo e un po' controcarichiamo, dappertutto, alla buona, lanciando sassi raccolti da terra al volo. Scappiamo, divisi, ma tenendoci comunque a vista, verso la porta di San Giovanni, direzione metro. Se ci inseguono là sotto, gli faremo fare la fine degli sbirri nella metro di New York nei Guerrieri della Notte. Ma ci sono troppe guardie, quindi andiamo avanti, verso la fermata della metro Piazza Re di Roma. Centinaia di persone affollano via Appia. È il primo sabato di saldi post-natalizi. Bene, forse riusciremo a mimetizzarci meglio. Vediamo diversi gruppi, gruppetti di compagni e compagne. Ci salutiamo appena, quasi non ci conoscessimo. Quante guardie ci stanno tra noi adesso? Antonello si ferma di botto, si regge a un palo della luce e vomita sul marciapiede, davanti alla gente piuttosto basita. Puzziamo di sudore e lacrimogeni. Meglio sbrigarci a infilarci sotto la metro e tornare verso il nostro amato ghetto. Fanculo, guardie di merda! Non ci avete preso manco stavolta. Quando siamo sul vagone, Dario si scusa con me, dice di aver sbagliato, che non voleva e non doveva colpirmi, ma che l'ha fatto perché io stavo perdendo davvero la testa e quindi era il suo modo per calmarmi. E mi commuovo. Cioè, Dario che si scusa con me. Cioè, a me viene da piangere e da abbracciarlo. Sarà l'adrenalina che ancora mi ribolle nel sangue. Gli dico che ha ragione, che ha fatto bene e che non dovevo sbroccare così. Il giorno dopo mi telefonano a casa i miei amici ultra per farmi e farci i complimenti. Me li fanno anche quelli che erano compagni e ora sono diventati nazi. Per fortuna che il mio telefono, e spero nemmeno il loro, non è sotto controllo, altrimenti avremmo risparmiato un sacco di lavoro alla Digos. Insistono che devo andare a Napoli per raccontargli tutto, e anche perché sicuramente oggi ci sarà il bis, sia con i napoletani, sia soprattutto con le guardie. No. Non vorrei che le guardie mi riconoscessero a Termini e mi arrestassero. Lo so, è una paranoia assurda, una scusa ridicola. Sì, lo so perfettamente dentro di me. È che in verità, da mesi, sono stanco del calcio e del mondo ultra. Mi tuffo nella militanza. Il salto l'ho fatto. I miei primi scontri da militante autonomo organizzato in una struttura storica dei Comitati Autonomi Operai di Roma. Che cosa volere di più dalla vita? Alemanno, pezzo di merda. Il nostro slogan rabbioso e potente squarcia il silenzio teso che stava nascendo. Ci piazziamo davanti al cancello della sala e ci incordoniamo, gridando slogan antifascisti e cantando bella ciao a più non posso, per darci la carica, per dimostrare ai fascistelli e alle guardie che stiamo forse perdendo una battaglia, ma che la guerra è ancora lunga. E noi resisteremo. Il più avvelenato è il prete, come al solito. Ci urla contro, dice che ce ne dobbiamo andare, prova a spintonarci per aprire un varco nel nostro cordone. Lo spintoniamo a nostra volta. Che bello. Ma evitiamo di fargli male, per non dare subito il pretesto alle guardie di caricarci. Il prete dice che il cancello e l'atrio di fronte alla sala dove stazioniamo è uno spazio extraterritoriale e noi non possiamo entrare. Se vabbè, mo stiamo all'estero, a Bagarozzo, questo è il trullo, mica il Vaticano! Gli grida contro Matteo, coi suoi soliti modi da baronetto inglese. Se noi non potevamo entrare, manca Alemanno! Forse non hai capito che oggi non fate nessun incontro pubblico, che qua i fascisti non ce li volemo! A Don Giovanni! Quando mi serviva la sala per la festa dei miei figli, mica ce l'ha data, manca a pagamento, perché siamo comuniste, e mo sto stronzo d'Alemanno lo fa entrare pure a gratis. Gli grida contro la Rossa, una combattiva compagna proletaria di zona, e tutte le donne amiche sue iniziano a insultare il prete, che, smascherato e umiliato, inizia a fare un passo indietro. A quel punto, Alemanno, un tempo conosciuto come Lupo Manno, decide di fare un passo avanti e prova a forzare. Col cavolo che passi, a stronzo! Alemanno c'ha presente Stalingrado? Ecco, questo è il trullo, uguale! Pure che sei un deputato, non ci metti paura, buffone! La ribella deputato, ma sempre fascista de merda resti! Quindi vattene a casa tua, che quante ce volemo! Chiude così il Viet la discussione. Le guardie private o la scorta, ma che pure l'ultimo dei deputati c'ha la scorta, o i suoi camerati, ancora non sappiamo bene chi cazzo siano sti stronzi che gli fanno la guardia del corpo, provano a farlo passare, spingendo i compagni per creare delle ali in cui Alemanno possa muoversi. La polizia li ferma subito. Le guardie capiscono che se si sposta il terreno di scontro fra noi e i camerati di Alemanno succede un finimondo a nostro vantaggio. E loro non possono e non vogliono permettere che gli si sottragga il loro ruolo. L'ordine pubblico è compito loro. Non lo delegano manco ai camerati dell'ultimo deputato, che sia chiaro. I fascisti allora fanno un mezzo passo indietro, ma si guardano in cagnesco coi compagni che gli stanno davanti e si prendono un sacco di insulti senza reagire, dando prova di notevole sangue freddo. Oppure di paura. Li vorrei vedere senza le guardie, quanto sarebbero capaci di fare i coatti. Alemanno non torna indietro, però. Forte del suo essere un cazzo di uomo superiore, e soprattutto di essere un neodeputato della Repubblica, ben protetto dalle forze dell'ordine accorse in gran marsa per lui in questo anonimo pomeriggio, non torna indietro. Questo stronzetto di Alemanno mi sta davanti. Lo guardo negli occhi. Cazzo, non mi fai paura, maledetto fascista di merda. Ci spingiamo, ci afferriamo le braccia e... ne viene fuori come un doppio saluto romano. Cioè, tipo il saluto del centurione, no? Così lo chiamano. Che cazzo, le situazioni di merda. Pure ridicola. Soprattutto ridicola. Sono tentato di dargli un pugno. Per chiudere sta storia e via. Ora glielo do. E sti cazzi di quello che dicono i compagni dell'antico molo e della gente e di tutto quanto. Ho la possibilità di mandare al tappeto Alemanno. In uno scontro cavalleresco, alla pari, uno contro uno, davanti a tutti. Sti cazzi se poi mi arrestano, poi i compagni, Simonetta, mi tirano fuori e sai che festa. Oh, steso quel fascista d'Alemanno! Il Viet dice che devo stare calmo. Vede che mi inizia a partire a brocca. Mi conosce bene, ci leggiamo negli occhi. Sto per perdere la testa e fare una cazzata. A Marchè, non puoi menare un deputato della Repubblica davanti a tutti sti testimoni. Ce caricano, d'arrestano e esci fra un anno. Sì, vabbè, mo un anno di galera per costesa Alemanno. O più solo a cazzotti, mica usi bastoni. Se Alemanno è un uomo d'onore, come dice di essere, se tiene la sveglia e basta. Non chiamerebbe mai le guardie, non me denuncerebbe, non me farebbe arrestare. Dai, Aviet. Ma Marchè, guarda che le guardie stanno già qui. Non c'hai bisogno che le chiama. Ma che te sei rincoglionito definitivamente? Togliete, va, che me ce metto io. Marchè, togliete, dai. No, io da qua non mi sposto. Ormai mi ci sono affezionato a sto cancello. Togliete, mettetevi fianco a me. Io sono nata e cresciuta artrullo, lo sai bene. Te pare che lo faccio passare? Ma almeno sono sicuro che non finiamo tutti a Regina stasera. Vabbè, però... oh, non lo fa passare, Viet! Non lo fa passare! Dopo un paio di minuti, Alemanno dà uno spintone a Viet e passa. Entra dentro la canonica e via. Vaffanculo, Viet. T'avevo detto che ci pensavo io. Ce ne andiamo sconfitti alla fine. A testa alta, dicono il Viet e Matteo. A me non mi pare per niente. Cazzo, come se stanno mettendo male le cose coi fasci e le guardie coatti dentro sta borgata. Eppure in tutta la città. Oh, stiamo a perdere dappertutto ormai. La notizia fa più male di un pugno nello stomaco. Sole si è suicidata. Non ho voglia di fare nulla, né di spaccare la città, né di fare una cazzo di inutile riunione in via. Una compagna non c'è più. Si è suicidata come atto estremo di lotta al potere, quello con la P maiuscola, quello totale, l'unico e il solo. Quello che solo i compagni anarchici riescono a vedere, mentre noi comunisti cerchiamo sempre di costruirne uno nuovo, diciamo migliore, ma poi chissà perché lo costruiamo peggiore. Una compagna anarchica argentina poi lo sa vedere meglio di tutti e tutte. La tua lotta contro il TAV l'hai portata fino in fondo. Chissà se un giorno finalmente ci saranno migliaia di persone che si muoveranno in battaglia contro quel mostro di ferro e vapore. Migliaia che non faranno sentire più sola nessuna compagna come te. Chissà, forse un giorno migliaia di persone nella valle che ti ha adottata scenderanno in piazza e riprenderanno la tua bandiera, ricorderanno anche la tua lotta e la tua vita. Forse un giorno davvero non sarai più dimenticata, come invece sta già accadendo ora, a poche ore dalla tua morte. Forse un giorno in tante e tanti correremo sui sentieri della valle, gridando i vostri nomi, quello tuo e di Baleno, gridando che finalmente siete vivi e lottate insieme a noi.